inizia ora Music for Youth. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Music for Youth, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Music for Youth, Radio Sandonà 102-200, Radio Sherwood 97-800, l'ora d'aria per Daniele Terzariol e Alvise Favotto. Buonasera compagno. Buonasera tesoro, quelle classiche cose tipo i pagliacci tristi che animano le feste dei bambini. I pagliacci Baraldi, e qua li vieni augurato al coma. Ci è arrivata una mail e ha detto: per cortesia andate in coma, non vi sopportiamo più. Ma se, sul serio? Noi ci siamo, non è vero niente, ci siamo andati vicini, veramente vicini, è solo un pretesto per presentare gli ospiti di questa sera. Favotto, pensaci tu. Allora, ladies and gentlemen, sono qui con noi questa sera i Mr. Coma. Un applauso. Buonasera Massimo Battistella. Ciao, io mi scuso che ho un raffreddore cosmico, però ci siamo. Guarda, sembri Barry White di noi altri, eh? Barry Wine. Barry Wine. Sei arrivato già carrozzato di vino? No, però ho portato il bassista di Mr. Coma e la cantante. Due ottime presenze che si faranno vive durante questa nostra ora di trasmissione. Favotto, te come stai? Ma io guarda, ti vedo un po' abbacchiato. Ma guarda, discretamente bene, sto aspettando il Natale. Di già? Sì. Pensavo almeno un Halloween. No, perché... Una fiera di San Donà, una festa della Poenta, qualcosa... Una fiera di San Donà che anche quest'anno ha regalato notevoli soddisfazioni, soprattutto per quanto riguarda lo stand dei trattori. Ringraziamo lo stand dei trattori, ma soprattutto ringraziamo i Mr. Coma, come abbiamo detto, ospiti questa sera da noi. Che cosa ci va a proporre una realtà come Mr. Coma? Del rock decisamente acceso. Sì, con influenze un po' rumorosette. Noise. Infatti, quali sono i pezzi che ci avete portato questa sera? Questa sera abbiamo portato un pezzo vecchio di Mr. Coma che è stato registrato nel lontano 2007 in quella realtà ben conosciuta dagli ascoltatori di Music for Youth, che è il Discovery Studio. Il pezzo si chiama Tina, è in una versione antecedente all'attuale, nel senso che cantavo ancora io nel gruppo quando avevo una voce. Ebbene, è questa. Perché come frusciante sei dovuto uscire dal gruppo? Cioè, perché ci sei rimasto e sei stato rimpiazzato da una presenza che esteticamente è più degna di te? Mi dispiace dirtelo, però. Anche vocalmente, direi. E sono uscito perché è venuto a farmi visita un anno fa un polipo delle fiere e non è andato più via. Ma, e si è affezionato. Si è affezionato, l'abbiamo bruciato col laser, ma ha lasciato... Il polpo è poi quello dei mondiali, quello esatto. Doveva posizionarti sulla figurina di Massimo Battistella o della nuova cantante, il polpo ha scelto. Abbiamo pensato anche di farne il logo, ma purtroppo la Piovra Records o qualcosa del genere esiste già, quindi insomma non sarebbe volevamo rubare niente a nessuno. Una causa annuale di anni e anni, sì, a colpi di royalties che non esistono tuttora. E dato che noi siamo un gruppo notoriamente senza soldi. Comunque è bello farsi degli amici anche tra gli animali, e non è vero che il cane è il migliore amico dell'uomo, è il polpo. Tu hai un tuo polpo? Non ho un mio polpo, ho un pesciolino rosso che ruota su una bulla, dimenticandosi A chi è il padrone, B che sta ruotando su una bulla. E tutto questo dopo 3 secondi. Esatto, anche non lo sapevi che è una memoria molto breve, caro Favotto. Sì, non ti stavo più seguendo, mi sono perso dopo gli ultimi 3 secondi. Complimenti, dicevo che come te hanno una memoria molto breve e vanno dimenticandosi della vita che trascorre. Che meraviglia. Quello che piacerebbe fare a te, perché... Sì, beh, perché altrimenti ricordarmi di questa. Allora, andiamo a presentare una canzone. Un pezzo, giusto tu? Per interrompere le nostre voci che hanno già rotto le palle, sì, abbastanza. Infatti. Che cosa presentiamo questa sera? Friends of P. Benissimo, Friends of P, degli perfetti sconosciuti che salgono alla ribalta solo perché riescono a fare una canzone che è musica di uno spot di una nota birra. Posso dire quale? Sì, è la Heineken. Sì, sì, assolutamente. Lui sì. Comunque canta nei Weezer. Lui era il cantante dei Weezer, saltano fuori nel 1990 più o meno. Power pop, come vuoi chiamarlo? Beh, direi sì. Voi avete conoscenza? Voi come dei vorreste Weezer? Chiamarlo? Cosa? Il suono dei Rentals o dei Weezer? Ah, dei Weezer. Pop, pop, pop. Porno, Poparolo, come direbbe la Maionchi su X Factor. Polpo rock. Un genere comunque che tentacolare, sì. Diciamo. E vabbè. Questi niente. Ragazzi non hanno avuto molto seguito, no. Come giusto che sia, però questa Friends of P, tra l'altro P. Che cosa stava a D? Cioè. Polipo, sicuro. Polipo, cioè, sicuro. Vedi che tutto torna nelle ambiguità di Massimo Battistella, sostituendo le ambiguità di Francesca Poli. Mambro, citazione nella canzone di Offlaga Disco Pax. Sì. Un saluto a Francesca Mambro, ci sta ascoltando. E anche al camerata Fioravanti. Al camerata Fioravanti. E avanti di sto passo da Radio Sherwood ci mandano fuori a bene. Calci. A questo punto, per io direi cortesia, che possiamo anche andare. Metti la manina sul coso lì e andiamo a sentire i Rentals. Fallo tu con molta cortesia, bene. Simpatia ed ampio parcheggio. 97.8 Radio Sherwood, RSD 102.2, Friends of P, The Rentals. I'm a good guy for a gal. So won't you look my palm over? I got time for a chat. So won't you tell me my future? I'm gonna break down at 50. And I'm not quite a stallion. I'm a good guy for a gal. And I'm mentally slipping. Oh yeah, oh yeah, what's that you see? Oh boy, find out what's up with me. Oh yeah, what's that you see? Tell me more of what's gonna be. If you're friends with me, well then you're friends with me. If you're down with me, well then you're down with me. Friends of P, friends of P, friends of P, friends with a P. Some modest fame and fortune is gonna come to me early. I get two loves in my life. And I'm dying at 90. Oh yeah, oh yeah, what's that you see? Oh boy, find out what's up with me. Oh yeah, what's that you see? Tell me more of what's gonna be. If you're friends with me, well then you're friends with me. If you're down with me, well then you're down. Friends of P, friends of P, friends of P, dall'album Return of the Rentals, questa era Friends of P. Tra l'altro, Foto, lo sai che se io avessi una strumentazione davanti a questo microfono molto scrauso, sì, potrei, come dire, darmi dire... fuoco? No, quello lo posso fare anche comodamente nell'angolo di casa tua. Con un accendino. Con della comoda nafta. No, ma come spiegarti? Ci sarebbe questo strumentino. Quale? Sta davanti alla mia peretta, sta davanti al microfono e potrebbe smorzare le mie P o la mia Z. Presente questa cosa molto veneziana che sì, si la pallina la tennis in bocca, quella specie di grattugia circolare, vuoi dire? Sì, bravo, quella che abbiamo nello studio della diretta e sì, che noi abbiamo pensato che fosse uno strumento per la pallacorda. Esatto, ecco. La famosa sputacchiera. Ecco, bravo, perché tu sei uso andare a trovare gente nella casa Niazzurri di Quarto d'Altino. No, esatto. Torniamo sui binari che ci sono più comodi. Sì, ma perché sei entrato in questo discorso? Non lo so nemmeno io. Come mi collega ego io a quello che stai dicendo? Non lo so, ora. Guarda, ascolta, l'importante è che abbiamo degli ospiti che fortunatamente sono qui a salvarci quest'ora di trasmissione. Chi sono gli ospiti? Mister Coma, sì. E tu ora fai delle domande prima che ti prendo la cosa lì, lo strumento della pallacorda eccetera eccetera. E ora, dato che sono baciato dall'originalità e questo lo sanno tutti, la prima domanda è: come si formano i Mister Coma? Oddio, Mister Coma si forma diversi anni fa, non mi ricordo neanche quando precisamente la prima formazione. Diciamo che i Mister Coma come ci sono adesso, grosso modo, si formano nel 2006, dove io e Nicola e un altro ragazzo che suonava la batteria con noi abbiamo fatto i nostri primi concerti, un bel po' in realtà, e in quella versione lì abbiamo già visto Iva solo in due episodi, però dei brani che facciamo e facevamo, e appunto nell'ultimo anno invece nell'organico è diventata la headliner... E la front woman del nostro gruppo, insomma. E quindi da trio passate a quartetto. Sì, diciamo che trio lo siamo stati poco e siamo sempre stati un quartetto. Diciamo che adesso siamo un quartetto ufficiale. Cosa è cambiato nel vostro modo di suonare? Se ti riferisci da quando è entrata Iva, nel nostro modo di suonare è cambiato innanzitutto che c'è un'altra persona che canta E questo per te è bello, vero? Questo per me è molto bello perché suono male sempre, però diciamo che sono un po' meglio di come suonavo prima, perché faccio solo quello. Esatto, sei come sei preso come me, che se sto al mixer faccio tutto giusto, se invece adesso mi metto pure a parlare e regolare i volumi contemporaneamente, cosa che purtroppo devo fare, vado a cartone. In panico. E quindi cos'è cambiato? Boh, abbiamo cercato di adattare un po' quelle parti dove una voce femminile ha bisogno di più attenzioni, o forse sì, dove era meglio far funzionare le cose così. Non ho detto niente appena adesso, guarda che però quel niente l'hai detto bene, secondo okay. me. Secondo me potresti buttarti in politica, perché del nulla ci hai fatto sopra un discorso. Ok. Credo che negli ultimi 13 anni funzioni così. Sì, forse anche un po' di più. Assolutamente. E bene, io ho finito le mie domande intelligenti. A questo punto andiamo però a parlare del pezzo. Sì, il pezzo. Allora, ci dicevi prima che ci avete portato Tina. Esatto. Noi si pensava una cagnetta come Laika e invece no. Allora, Tina non è una persona esistente, o meglio, è una tra le tante persone esistenti nel mondo. È un'entità ontologica. Esatto, è una personificazione, fa ridere anche a me, entità ontologica. No, è una personificazione, è una storia molto semplice, è una storia intanto. Tina è la storia di una ragazza che... è vittima di un tradimento e della perdita del posto di lavoro e molto tristemente si fa capire all'interno del brano che cade all'interno di un fiume e la persona che la sta cercando, che è il suo uomo che l'ha tradita, non la troverà più e neanche lui si vedrà più, insomma. È una storia triste. È una storia. Ricorda un po' Jeff Buckley. Sì. Cioè, non per dire. O il mostro di Firenze a scelta. qualcuno ha detto che riecheggia un po' la canzone di Marinella di De André, fondamentalmente, nel senso che anche lì c'era una donna che cadeva in un fiume. E qualcun altro, molto più intelligentemente, ha detto sì, però non c'è tutta la poesia attorno. Ecco, io non sono bravo a scrivere poesie, quindi, però so che purtroppo certe cose vanno a finire così. Hai appena detto io non sono bravo a scrivere poesie. Freccetta testi, Freccetta sei tu che scrivi i testi di Mr. Com? Non tutti, nel senso che i brani che cantavo io sì, sono stati scritti da me, e i due brani che ha cantato sempre Iva nel corso di Mr. Com sono brani che hanno scritto lei e Nicola, e i nuovi brani che stiamo facendo canta lei e se li scrive lei con mia grossa gioia. Andate a presentare voi il pezzo, fallo tu Max. Ok, allora questa qui è Tina, è uno dei cavalli di battaglia dei Mr. Com, buon ascolto. He's a rider. E questa è la Tina dei Mr. Coma su RSD 102.2 Radio Sherwood 97.800. Bentornati, Music for You, Falvise Favotto. È arrivata la tua proposta, perché adesso tocca a un ragazzo che era uscito come Massimo Battistella dal gruppo, sì. Però non erano i Mr. Coma, ma erano i Blur, e stiamo parlando di Dr. Graham Coxon. Sì, devo dire qualcosa? Beh, Graham Coxon, famoso alcolizzato, mentre... È vero. Sì, è vero. Mentre il resto dei Blur si dedica ad attività assolutamente propositive. Avevamo fatto un listone quella volta, sì, la scorsa stagione che ad esempio il bassista è un... Si intendeva di formaggi? Esatto, colleziona formaggi. Uno aveva un patentino per gli aerei, non mi ricordo chi. Esatto, credo il batterista, mentre Damon Albarn fa cose con altri gruppi. Questo beveva quantomeno, sì. Però nel periodo in cui beveva realizzava anche dei pezzi di un grosso livello, secondo sì. me. Tu senti identificarti in Graham Coxon, caro il mio Massimo Battistella? Non suono così bene, non so sul bere se possiamo competere, ma credo che anche può lì essere. No. Vai a setacciare il 7-Eleven tipo alle 3 della mattina e ti scoli del gin in solitaria davanti a marciapiede? No, ma non lo faccio solo perché qui non ci sono i 7-Eleven, bravissimo. Sappi che in Norvegia noi abbiamo trovato un blackout all'interno di un 7-Eleven e io e Favotto, ebbene, ce ne vantiamo anche radiofonicamente, ma abbiamo rubato le stecche di cioccolata. Sì, i peggiori degli italiani proprio, cala la luce... Tutti escono, io e Terzariol entriamo con il sorriso, tipo 36 denti, si vedono solo i sorrisi nel buio, e a questo punto usciamo con della cioccolata. È furto? No. Beh, insomma, non so che nome vuoi dargli. Diciamo un prestito. Sì, è come vuoi restituirlo, guarda, non ti chiedo neanche. Condonate, al limite. Esatto. Tanto qua si va avanti a colpi di condoni un po' dappertutto. Condoniamo 3 stecche di cioccolata e un poggiolo, secondo me. Sì, sì, sì. Io dovrei anche dichiarare una mezza... vero? Sì, ed una mezza casetta di legno usata indegnamente nel mio giardino. Oh, che bellezza. Fa cubatura, che cosa ti devo dire? Cioè, poi mi arrivano e fanno le foto con l'elicottero sopra casa e mi danno una multa lunga da qua fino al 2027. E poi tu hai un bel dire, è un nano da giardino che è cresciuto troppo, in realtà no. L'ho innaffiato troppo. Esatto. Stavamo parlando vivi dentro, di Graham Coxon. Graham Coxon, appunto, l'abbiamo bistrattato. Chitarrista dei Blur, una brillante carriera solista nel momento in cui i Blur decidono che è il momento di darsi alla macchia. Ha fatto 7 album. Fa 7 album che passano quasi tutti dimenticati in malo modo. A velocità illegale, sì. Come l'album dal quale abbiamo estratto questa canzone. In questo lui ritorna un po' alla sua radice, se si potesse dire, un po' più punk in qualche modo, un po' più rock and roll. Bah. E comunque, questa canzone cos'è, Terzariol? Volevi sapere il nome? Sì, lo vorrei Standing sapere. Standing on my own again. Bene. Cioè, nel senso che finalmente sta in piedi. Sto in piedi da solo di nuovo. Presumo per il sono fatto. Sobrio. Ecco, volevo andare proprio a finire lì. Massimo Battistella fa sì con la testa, nonostante sia seduto. E però sono sobrio. Esatto. Giuro. Sono sobrio. È pop, è rock, è quello che volete. Secondo me è un po' più rock che un po' più ai pop. Nostri radioascoltatori. La risposta. Andiamoci. L'ardua sentenza. Andiamoci ad ascoltare Graham Coxon su RSD 102.2 Radio Sherwood 97.800 da Love Travels at Illegal Speed. Questa è Standing on My Own Again. Standing on my own again. Questa era Grant Coxon, RSD 102.2 Radio Share, 17800 Music for Youth. Bentornati in compagnia di Lele Alvise e i Mr. Coma. Mr. Coma, ora è il turno del vostro pezzo. Che cosa avete portato? Del nostro pezzo? Nel vostro pezzo? Del pezzo da voi scelto. Da voi scelto, uno dei, dei due. Fosse tipo un refuso, tipo che stessimo rivivendo. Sì, sì, esatto. un déjà vu radiofonico. Esatto. Però in queste, nella seconda versione Daniele è vestito da Gabibbo. No, il pezzo che abbiamo portato è di uno dei più grandi gruppi che ci hanno ispirato, è anche uno dei più grandi gruppi del rock alternativo americano, che sono i Sonic Youth. Grazie. Prego. Insomma, scusa. Salutiamo Thurston Moore. Sì, lo salutiamo. Ciao Thurston. Dubito sia. Bye Thurston. Non credo lui ci sentirà. A me hanno detto che ascolta Radio Sherwood ogni giorno. Pensa. In streaming. Abbiamo detto Sonic Youth tra le vostre principali influenze. Yes. E per continuare le mie domande particolarmente originali e intelligenti, che cosa abbiamo oltre ai Sonic Youth che vi influenza nella vostra produzione musicale? Allora, principalmente loro e gli Shellac di Steve Albini e anche diverse produzioni di Steve Albini, quali Jesus Lizard. Mm-hmm. E poi ci piacciono un sacco, credo a tutti quanti, Mr. Coma, i primi gruppi di Nick Cave, quindi Birthday Party, i primi album dei con i Bad Seeds. A me personalmente piace molto anche le cose nuove che fa con i Grinderman. È uscito da pochi giorni il nuovo disco, tra l'altro. Sì. Il primo era bellissimo, il secondo anche, il terzo non l'ho ancora sentito. Nel primo c'erano Pussy Blues, che sì, era qualcosa sì, che era di molto figo. Poi a livello anche nazionale ci sono delle cose che ci piacciono. Io sono un fan sfegatato del teatro degli orrori, per esempio. E poi ci piacciono anche appunto il pre-teatro degli orrori, quindi One Dimensional Man. Ci piacciono molto i Super Elastic Bubble Plastic, e lo dico solo perché gli abbiamo aperto un concerto e ci tenevo a dire questa cosa. E poi chi ci piace ancora? Ci piacciono i Fugazzi. Boh, un sacco di cose, insomma. Tanto underground americano. Kill Your Idol è il pezzo che avete scelto. Che abbiamo scelto è un pezzo bello vecchiotto dei Sonic Youth, è credo una delle prime incisioni che hanno fatto, non proprio la prima. Guarda, se sei bravo a pescare tra 20 album tra quelli che loro hanno prodotto, ti do il premio. Questo qui dovrebbe essere dell'81, se non erro. E, allora, e molto probabilmente allora LP d'esordio. Potrebbe essere un credo. Loro avevano registrato qualcos'altro prima di strano, tra l'altro credo senza un batterista, ma con loro che facevano delle percussioni. Qui mi pare ci sia il primo batterista della formazione, che non mi ricordo assolutamente come si chiama. Il pezzo è Kill Your Idols dall'EP Kill Your Idols. Andiamo a uccidere i nostri idoli, per favore. Provvedo subito a fa voto. Grazie. Eccoteli qua, Sonic Youth. Tristan Moore e compagnia, questi erano gli Sonic Youth, Kill Your Idol, uccidi i tuoi idoli, Favotton, se ne hai, altrimenti uccidi me, fai una cortesia, poni fine a questa mia esistenza. Ma io ci penso spesso, sai, però poi... Avevo notato in te quell'occhio omicida, no? Che contraddistingue, che accomuna me, Pacciani e un paio di altri. Siamo arrivati al momento che a te piace sempre, l'unconventional moment, i contatti, grazie. Allora, caro radioascoltatore di Radio Sherwood e Radio Sandonà, poniamo fine all'annoso problema della ricarica per il folletto. Folletto, un aspirapolvere che da sempre ha desta problemi nel consumatore nel momento in cui cerca il sacchetto per raccogliere la polvere. Allora, tu ci chiami allo 0421 560993 o ci mandi un fax allo 0421 560994 e il duo Favotto Terzariol ti porta a casa uno stock da 16. A questo punto un'email a radiochiocciola@radiosandona.it e hai anche una spazzola 36x4 in omaggio. Se sei bravo, setole in di un animale. Cinghiale? Benissimo. Stavo per suggerire nutria. Beppe ha dei baffoni la nutria, Se saremo gentili, sì. Se ci mandate, la mail l'ha già detta. La mail l'ho detta, sì. Se vi collegate ai nostri podcast, raggiungibili agli indirizzi musicforyouth.wordpress.com, Favotto per cortesia, fai lo spell di youth. Youth, per i non anglofoni, è YOUTH. Un altro blog invece è musicforyouth.tumblr.com, anche se dovevo pronunciarlo Tumblr. Terza puntata che lo diciamo, ma almeno ve lo ficcate. C'è un contest per sapere come si pronuncia Tumblr. Si diceva, se siete bravi a collegarvi a questi blog, noi vi facciamo anche una dimostrazione con il folletto che pulisce con l'acqua bollente. Sì, io mi stendo per terra, Terzariol mi lancia dell'acqua addosso, io sto sulla schiena però perché ci tengo ancora al naso, e a questo punto mi spazza. Eravamo anche andati a fare questa cosa a casa di chi? A casa di Adam Green. Adam Green, felice comunque. La tua seconda proposta con dedica al popolo di Scozia, sì, perché non serve che lo nascondi, ma puoi anche dirlo in un momento di autoreferenzialità. Sì, a tutta la Scozia in genere e ai bevitori di Frattino in particolare, che tanto non mi capiranno, però vabbè, quantomeno, questo è Adam Green. Adam Green, una persona che decide di lasciare la scuola in tenera età e fare il cantante, e improvvisamente, a differenza di tutti i vari tizi di X Factor, questo ci riesce. A 14 anni lui faceva il cantante, mentre io e te andavamo a buttare petardi nei parcheggi sotterrati delle banche, facendoci le grosse risate e tornando a casa sentendoci pure realizzati. Pensa alla nostra stupidità e per contro l'intelligenza di Adam Green. Il ragazzo ha fatto un album, si chiama Jacket Full of Danger, nel 2006. Sì. Prosegue la sua carriera tuttora. Lui ha suonato nei Moldy Peaches, mi pare di ricordare. E adesso è il turno, un palo dei Maroni. Potremmo perché dire che anche registra per Rough Trade, che insomma schifo non fa. No, assolutamente no, anche perché produce i Veils, se te li ricordi, sì, quelli di Lavinia. Sì. Dovremmo anche metterla su. Vabbè, chiudiamo questa parentesi. Adam Green, andiamo a ascoltarci il suo pezzo, che è estratto per l'appunto dal disco che ho detto poco fa, che è Jacket Full of Danger. Bene, questo per gli ascoltatori dei 97.8 di Radio Sherwood e dei 102.2 di RSD è Adam Green e la canzone ce la dice Terzariol. Dance with me. Heart and soul, baby, there is no goal. Turn the lights on bright, you're a rock and roll star. Feel my love coming from the heavens above. When my eyes meet your eyes, you know it's true. Baby, come dance with me. Baby, come dance with me. On TV, at the TV station. Baby, come dance with me. Baby, come dance with me. our lost end. I'm at home and nobody wants to be here alone. Ooh, babies in mint condition. Man, I'm doing some dirty wishing. Let's both get on that rocket to the stars. Baby, come dance with me. Baby, come dance with me. On TV, at the TV station. Baby, come dance with me. Baby, come dance with me. On TV, at the TV station. Glasgow, be happy. Questo era Adam Green, Dance With Me, con la dedica non detta di Alvise Favotto a tutti, a tutta la popolazione di Glasgow. A tutto il mondo. Ciao ragazzi, state a court, mi raccomando. Bene, già avevano difficoltà a capire l'italiano, ora sarà un momento assolutamente simpatia. Bene, a questo punto è arrivata la seconda. Possiamo fare delle domande al nostro ospite. Ma fai quel che vuoi. Ai nostri ospiti. Allora, cari ospiti, in quanto band ci aspettiamo da parte vostra che abbiate delle date in futuro. Le sì, avete? Abbiamo due date per adesso, e una venerdì 8 ottobre qui a San Donà di Piave al Demo Rock, un festival organizzato dai Giovani Democratici di San Donà di Piave. Siamo con un bel po' di band interessanti. Vuoi fare il listone? Sì, se me li ricordo tutti sì, volentieri. Allora, apriranno Gruppo Giovane e Talentuoso, Hermetic Garage, che fanno questo psychedelic rock molto fico. Poi ci sono i Weather Rock, che invece propongono un repertorio acustico, folk, da quel che ne so io. Poi abbiamo i Paul and the Bonopolis, che fanno questo rock and roll selvaggio e divertentissimo sulla linea Schiantos, ma forse osano di più. E poi abbiamo un altro gruppo caro ai giovani sandonatesi, che sono i Seven Sisters Hot Pelushes, che anche loro fanno questo indie, quindi sono di casa qui, penso. Sì, abbastanza. Sì, anche, i ragazzi sono anche passati da queste parti. Sì, sì. Poi ci sono i The Souls, appunto, che sono in promozione col nuovo disco, quindi mi anche pare loro, una nostra conoscenza. E anche loro mi pare una cosa figa da sentire. E poi ci siamo noi col nostro consueto tran tran casinista, insomma. Beh, scusa, ma mica una cosa. Una signora line up. Ma infatti, Glastonbury fuck off. Esatto. Ovviamente non li ho detti in ordine, così vi costringo a venire tutti dall'inizio della manifestazione, che è alle 7 e si concluderà a mezzanotte. Credo che sia bello, insomma. No, infatti sembra una bella cosa, perché non andarci? Anche perché poi potrebbe arrivare il classico carabiniere ad abbassarti il volume. Esatto, io non aspetto altro. E poi volevo ricordare con grossissimo anticipo, ma lo faccio già, il 6 novembre siamo al Revolver Club di San Donà di Piave, e Circolo Arci, con Love in Elevator, che presentano invece il loro terzo disco, che si prospetta essere uno dei dischi più chiacchierati dell'indie nuovo italiano, insomma. Dopo due dischi con Gestrai, questo, se non erro, è il primo che fanno da indipendenti, e credo che sia una bella occasione, anche perché mi sa che hanno messo anche dei testi in italiano, e quindi potrebbe essere interessante. Voi pensate di chiudervi in studio prima o poi? Oddio, l'idea c'è, da qualche mese. Adesso stiamo definendo un po' le cose nuove che stiamo facendo e boh, con calma faremo. Ma infatti c'è sempre tempo per chiudersi. Dillo ai Fugazzi. Esatto. Che forse loro qualche nuova proposta ce l'hanno. Si sono più fatti vivi i Fugazzi? Esistono tuttora? Sono in pausa dal 1999 più o meno. Bella pausa. Un 11 anni che insomma. La classica cosa per la quale io arrivo a casa tua, sotto a casa tua alle 11 di sera, e faccio al Vise: ascolta, prendiamoci una pausa. Esatto. E poi trascorsero 11 anni. E io capisco che mi stai lasciando e non tornerai mai più. Sì, ma sono quelle cose che puoi dire, non dire. Wait. Ora che me l'hai detto, domani faccio una scatola e ti riporto le tue cose. Grazie. Io approfitterei della vostra capacità con la lingua inglese per suggerire un come pronunciare correttamente Fugazzi. Perché io ho sentito tipo degli speaker americani che facevano una cosa tipo Fugazzi, Fugazzi, quindi... Alvise, io mi fido di te. Io direi, nella mia ignoranza, io direi Fugazzi. Ok, però è una mediazione che ci piace. Signori, sappiate che il nome del gruppo ha origine da un acronimo utilizzato dall'esercito degli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam per indicare le situazioni di combattimento particolarmente pericolose, e lo dice il foglietto che ho qui sotto. Quindi vuol dire tipo so cazzi più che fugazzi. Esatto. Hai presente, tipo, avete mai visto Bastardi senza gloria? Sì, ecco. Sì, sì. Al allora, cinema tre volte. Avrebbero detto fottuto, preso in imboscata, chiuso dentro, fucked up, got ambushed, zipped in. Questo è Fugazi. Mamma mia, guarda, sto piangendo. Sono un ragazzo che si documenta, ma, sì ma o no? Veramente? Cioè, hola. Mi riempi di soddisfazione. E diamo non a Lele quel che è di non Lele. Non capisco ancora perché hai voluto lasciarmi 11 anni fa. Dai, però... possiamo tornare insieme. Ok. Grazie. Di nulla. Ci ho sempre sperato. Te l'avevo. Vabbè. Domani mazzo di crisantemi per te, non preoccuparti. Finalmente. Ci avviciniamo al nostro mese preferito. Esatto. Fugazzi è la seconda proposta che ci porta il buon Max con cantante e silenzioso altro strumentista a seguito. Che altro strumentista è bassista. Sei bassista? È bassista, no? Perché siccome c'è uno sciopero, io insomma da questi qua mi tengo un po' distante. No, sciopero, in realtà sciopero ne ho uno da una parte e uno dall'altra che tirano calci quando dico troppe stronzate. Tipo. Beh, guarda che è un'utilità sociale che noi, cioè, tante volte, tu non vorresti uno che ti tira sì, calci. Sì, come il cestino ogni 200 metri, esatto. Uno che ti tira calci ci va sempre. Questi Fugazzi... Tu che cosa mi hai ascoltato di questi bei ragazzi qui? So che il nostro buon bassista è stato al concerto, se poi vuol dire qualcosa, bene, altrimenti a me continua pure a snobbarci. A me una volta, quando mi ha parlato, perché mi ha parlato un'unica volta, mi ha detto che sono stati fighi. Sì, è stato anche proprio base nelle comunicazioni. Sì, sì. No, non ha detto... com'erano i Fugazzi, Nicola? Fighi. Ok, figata. E a questo punto noi andiamo a sentirci questo simpatico trio. No, sono un quartetto. Post-hardcore da Washington. E ti dico anche 1987. Come si diceva, io ho anche due dischi di sta gente nella macchina vecchia. Sì, quella che sta girando tuttora per la provincia di Venezia. Sì. A chi l'hai data in mano, che non mi ricordo più? A dei tizi del Bangladesh, se devo dirti la verità. Mi pareva di ricordare. Andiamo a ascoltarci i Fugazi. Questa è Break. So I'm fulfilled. We take apart everything we build. Had it right here, now it's gone. All in a Break dei Fugazi, questa era Break per l'appunto dei Fugazi per l'appunto su RSD 102.2 Radio Show 97.800. Stiamo arrivando in finale di puntata, sono stanco. Anche tu hai i tuoi limiti fisici. Paolo limiti, esatto. E ce l'ho nel portabagagli, per quello non si vede più in giro. In borsa, a pezzetti. Ha smontato, a pezzettoni. E alla sera lo rimonti come i puzzle. Ho anche Floradora, se ti interessa. Ti ricordi il cagnolino che c'aveva in trasmissione? Ecco perché. Siamo a posto. Guarda che mi sono ricordato il nome di colpo. Come cacchio ho fatto a ricordarmi il nome di Floradora? Vabbè. Vabbè, l'hai ucciso tu, l'ho capito. Ma io vado su commissione, non mi interessano i nomi, mi interessano i soldi. Ma per quello ti riempi il bagagliaio di Abre Magique, perché sì. Così confonde. Non perché ne vado ghiotto, soprattutto quelli alla lavanda. A merenda con latte. Bene, a questo punto, in un momento di sporadica serietà, noi chiediamo ai nostri ospiti, nonostante se ne sia palesato quello che parla dei nostri ospiti, vocalmente solo uno, di ricordarci come si fa a contattare i Mr. Coma nell'universo virtuale. Allora, tramite famoso Iole, no, sto scherzando, abbiamo un MySpace che andava un po' più di moda anni fa, che è www.myspace.com/mrcoma, quindi molto semplice e basico, e comunque poi ci trovate su Facebook. Cerchiamo di tenere aggiornati entrambi, comunque, quindi le date le trovate lì, e se volete direttamente scriverci, mrcoma@hotmail.it. Perfetto. E questo è quanto. Ricordo di nuovo la data al Demo Rock, venerdì 8 ottobre. Se qualcuno proprio non può venire dalle 7, ricordo che noi pressa poco suoneremo sulle 10, e poi vabbè un 6 novembre ma in là avremo, anzi avrete modo di ricordarlo. Ma certamente sì. Abbiamo già avuto modo con Normal Eventi e Promotion, il nostro promoter. Ah, il vostro promoter? Sì, quando riesce sì, ci fa da promoter. Ed ora, sì, ed ora viene da pensare che sono stati spediti qui da lui, in realtà no, dai. In realtà no, ce li siamo scelti noi. Ed è per noi un vanto. Io sono stato contattato dal signor Daniele Terzario. Qui presente ai mixer in regia per voi, Alvise Favotto, buon compagno di questa ora, come di tutte le puntate, che purtroppo andranno a seguire questa tragica ora di programmazione di oggi. Ci dispiace, radioascoltatori, noi non vorremmo, però purtroppo. Diamo prova, come gli I am Clot, proof, diamo prova alla nostra incapacità. Bene. Ora, invece, tocca per l'appunto agli I am Clot, la traccia di chiusura di oggi. Questo è un gruppo che viene anche questo dalla terra d'Albione. La Manchester del Noantri, insomma, si formano nel 99, mi dicevi prima. Sì. E a questo punto che cosa fanno? Fanno un simpatico pop. Simpatico pop acustico, non abbiamo molto da dire su di loro. No, se non che questa traccia no. Tutto sommato ci piaceva. Però prima, sono prima sponsorizzati di metterli dagli Elbo. Sì. Prima di metterli noi ringraziamo i Mr. Coma. Caspita, sì, ringraziamo i Mr. Coma. E i Mr. Coma ringraziano voi. Che sembra che salutiamo te tipo come il mago Telma, perché che poi sembro, cioè ho questa voce grossissima, ma in realtà vorrei rivelare che sono tipo alto 30 centimetri. Tu sei il famoso nano da giardino cresciuto, esatto, da me, no? È bellissimo perché in questo caso lui è uno e trino. Sì, ma per quello ti dicevo come il mago Telma, che quando risponde dice beh sì, noi abbiamo pensato che insomma questo e quest'altro e quest'altro. Noi Mr. Coma vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Per piacere prendiamoli in radio al posto di uno dei due o di entrambi. Per ora è tutto. Per ora è tutto, purtroppo. Ci aggiorniamo la prossima settimana. Music for Youth Radio Sherwood 97800 in appoggio RSD 102.2. Il nostro blog è musicforyouth.wordpress.com per questo podcast con il Mr. Coma e per tutti i podcast passati. Noi vi stiamo salutando, questa è la nostra traccia di chiusura, Monsieur Favoteau, saluti anche a te. Au revoir, come diceva Cantona nella pubblicità della Nike. I am Claude, Proof, dal loro ultimo album Sky at Night del 2010. Alla prossima settimana, ciao. Hey, could you stand another drink? I'm better when I don't think. Seems to get me through. And say, do you wanna spin another line? Like we had a good time. Not that I need proof. Swell, we're living in a hotel. Someone's ringing my bell. The room without a view. Hey, heard you read another book. Should I take another look? Who am I? Without you, stand another drink. I'm better when I don't think. Seems to get me through. Say, do you wanna spin another line? Like we had a good time. Not that I need proof. Swell, we're living in a hotel. Someone's ringing my bell. The room without a view. Heard you read another book. Should I take another look? Who am I?